Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Sono tornato in Italia perché l'Italia è il paese in cui voglio costruire il mio futuro. Sono tornato in Italia perché voglio spremere le mie energie per la mia terra. Voglio tornare in Italia perché è dall'Italia che voglio continuare a esplorare il mondo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un omaggio al controesodo nella nostra copertina con La strada di casa, reportage in 7 minuti per raccontare il percorso retroso di 3 ex cervelli in fuga. Ogni anno 14.000 laureati lasciano l'Italia, di questi solo un terzo rientra nel paese, denuncia il documentario. Da Torino a Napoli, passando per Stoccolma, La strada di casa racconta le storie di Paolo, Vincenzo e Serena, che hanno deciso di sfidare le statistiche. I registi sono Goffredo D'Onofrio e Carolina Lucchesini. Il trailer del reportage lo trovate su YouTube. Perfettamente in linea con la copertina, la frase della settimana, copyright del ministro dell'economia Piercarlo Padoan: i giovani devono cogliere ogni opportunità di fare la prima esperienza di lavoro ovunque sia, non escludo nel breve il consiglio di andare all'estero, ma ricordo anche che l'Italia ha bisogno di tutto il loro talento per cambiare in meglio, così Padoan. Lo sapete che i lavoratori italiani sono tra i più insoddisfatti d'Europa? A rivelarlo l'ultima indagine Eurobarometro. I dati sono molto al di sotto della media comunitaria. Ma c'è un altro dato che grida vendetta e spiega molto della fuga dei giovani dall'Italia. Secondo l'Istat, nel 2013 gli occupati nei call center presentavano un livello di istruzione più alto della media. Più di un quinto possedeva un titolo universitario. Giovani, laureati o con master nei call center è una classe dirigente italiana nel pubblico come nel privato piena di gente che vanta a stento il diploma. Questa, lasciatecelo dire, è la vera vergogna della penisola, oltre che la più pesante ipoteca sul suo futuro. Intanto sono aumentati dell'11% nell'ultimo biennio gli acquisti di case fuori dai confini nazionali, lo sottolinea l'ufficio studi immobiliare.it, segnalando che fra le motivazioni alla base della scelta figura anche la volontà di aiutare i figli che sempre di più emigrano per trovare lavoro. La Gran Bretagna, paese che ha visto aumentare in maniera esponenziale l'arrivo di giovani italiani, è una delle nazioni in cui si concentrano gli acquisti, seguono Berlino e Monaco di Baviera. Noi vogliamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, fino a Boston, per raccontarvi una storia straordinaria. Penso che sicuramente l'esperienza all'estero mi abbia aiutato a connettere dei punti che sono molte volte difficili da riconciliare. Livio Valenti, 29 anni, è un imprenditore nel settore scientifico negli Stati Uniti. Livio compare in una prestigiosa classifica della rivista americana Forbes. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Cresce l'emigrazione italiana. Nel 2013 circa 82.000 connazionali si sono trasferiti all'estero, 14.000 in più rispetto al 2012, il valore più alto registrato nel corso dell'ultimo decennio, lo afferma l'Istat. Solo 28.000 i rimpatri di italiani immigrati, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Se guardiamo solo al bilancio migratorio degli italiani, il saldo negativo è pari dunque a meno 54.000 unità. E secondo il social network professionale LinkedIn, l'Italia fa registrare un deficit del 28% fra talenti che espatriano, oltre 35.000, e talenti che vengono a lavorare nella penisola, meno di 28.000. Forte ondata di ingegneri e progettisti italiani verso la Germania. Per paesi esportiamo professionisti soprattutto verso Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Francia. L'82% dei professionisti italiani è disponibile a trasferirsi all'estero pur di inseguire opportunità professionali allettanti. La meta più gettonata resta l'Europa, seguita da Nord America e Oceania, lo rileva Hayes. Una professionista su due si dichiara disponibile a cambiare lavoro, tra i motivi la ricerca di una maggiore soddisfazione professionale, una prospettiva di crescita interessante e una retribuzione più sostanziosa. Il 22% dei laureati all'Università degli Studi di Perugia nel periodo 2007-2011 ha fatto almeno un'esperienza all'estero. All'interno di questo gruppo un terzo è poi rimasto a vivere oltre confine, a rivelarlo l'ultimo rapporto Brainback Umbria. Rispetto agli altri paesi europei, l'Italia si trova in una posizione di svantaggio riguardo al livello di istruzione della popolazione, lo rileva l'Istat nel rapporto annuale, spiegando che l'anno scorso appena il 16% delle persone under 65 possedeva un titolo universitario contro il 28% della media europea. Lo svantaggio permane anche quando si considerano le generazioni più giovani. Storie di controesodo. È tornato in Sicilia il giovane astrofisico catanese Luca Naso, 33 anni, dopo diversi anni all'estero come ricercatore tra Oxford, Varsavia e Pechino. Lo ha fatto scommettendo sul progetto imprenditoriale di un amico fisico, assumendo la posizione di direttore scientifico di un'impresa della provincia di Catania che progetta software nell'ambito del Digital Signage. Lo abbiamo intervistato. Il motivo principale che mi ha spinto a rientrare è quello di inseguire i miei sogni, così come lo stesso motivo mi ha spinto ad allontanarmi dal mio paese, adesso ci rientro. Il mio sogno è appunto quello di realizzare qualcosa che possa migliorare il mondo in cui viviamo, realizzando dei prodotti che le persone possono vedere e toccare con mano nella loro vita di ogni giorno. E al tempo stesso devo dire che proprio sono molto contento e felice in maniera proprio personale di avere la possibilità di rientrare nel mio paese e mettere a disposizione, come dire, le mie esperienze, le mie conoscenze, per quanto piccole possano essere, proprio per il mio paese. Quanto secondo te l'Italia nel suo complesso è ora pronta ad accogliere giovani di talento, giovani professionisti, giovani cervelli di ritorno come te? Oggi più che mai, secondo me, le persone, sia i giovani che i meno giovani, non devono lasciarsi scoraggiare da nessun tipo di difficoltà, perché grazie alle nuove tecnologie le distanze si abbattono e così abbiamo il risultato che Edison Web, da un paesino del centro della Sicilia di 5.000 abitanti, riesce a realizzare dei software, dei prodotti venduti in tutto il mondo. Possiamo quindi dire che l'innovazione potrebbe essere l'arma per svecchiare e modernizzare finalmente questo paese, renderlo un paese per giovani? Assolutamente sì. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a conoscere la giovane eccellenza italiana nel mondo. Vi raccontiamo la storia di un connazionale imprenditore innovativo nel ramo scientifico, tra i primi 30 under 30 scienziati e imprenditori internazionali del futuro. Nome: Livio. Cognome: Valenti. Età: 29. Città di origine: Arezzo. Studi: economia e politiche pubbliche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Cina, Cambogia e poi Stati Uniti. Perché? Per studiare e poi lavorare e in generale esplorare. Qual è il lavoro svolge attualmente? Sono un imprenditore di startup innovative a Boston. Tornerai? Sì. La difficoltà di portare i vaccini ai pazienti nei paesi in via di sviluppo è principalmente data dal tenerli a temperature basse. L'azienda di Livio Valenti, Vaxes, utilizza la seta per stabilizzare i vaccini, rendendone possibile il trasporto. L'azienda ha ottenuto un finanziamento da 4,5 milioni di dollari da Norwich Ventures e dall'angel investor Jeffrey Walker. Livio, con questa motivazione, la rivista americana Forbes ti ha inserito nella prestigiosa graduatoria dei 30 under 30 da tenere d'occhio a livello mondiale. Un riconoscimento che fa onore a te e all'Italia. Ma per cominciare voglio essere un po' provocatorio: solo andando all'estero si possono raggiungere questi traguardi? Ma sinceramente non credo che l'estero abbia necessariamente dato un vantaggio competitivo. Penso che sicuramente l'esperienza all'estero mi abbia aiutato a connettere dei punti che sono molte volte difficili da riconciliare, però credo che un'esperienza del genere e esperienze del genere ci siano tutt'oggi in Italia e che non sia l'estero che ha stata la criticità del successo di questa iniziativa. Connect the dots, diceva Steve Jobs. Toscano di origine, il tuo primo amore è stata la musica, con liceo classico e indirizzo musicale, e poi però la decisione di cambiare rotta a 180 gradi con iscrizione all'Università Bocconi di Milano. Perché? Perché ho visto come una sfida, pensavo di essere riuscito ad arrivare a un livello abbastanza decente di suonare il mio strumento, un livello abbastanza decente di latino, e quindi mancava quella parte più scientifica che sentivo che era diventata una mancanza proprio strutturale nella mia educazione. E oltre all'insegnamento, i tuoi ricordi universitari rievocano soprattutto le esperienze di scambio all'estero, la prima alla USC LA di Los Angeles, un anno indimenticabile, ricordi. Quanto quell'esperienza è stata fondamentale nel cambiare il corso della tua vita? La prima volta che sono stato esposto a un sistema educativo totalmente diverso, in cui la richiesta è quella di essere provocatorio, quella la richiesta è essere di quello inquisitivo, più che stare, diciamo, in classe ad ascoltare. Quindi è stato proprio un cambiamento a 360 gradi, in cui ti devi mettere in gioco, in cui se non alzi la mano quattro volte in ogni lezione non è solo te contro un esame, sei tu e l'interazione con la classe, che sono una delle cose più importanti, che poi vengono valutate, vengono stimolate. A ritorno dalla California alla laurea triennale, 110 lode contesi in management pubblico. Il tuo personale voto all'università italiana? 110 lode. Conclusa la laurea, arriva anche per te la classica domanda del cosa fare adesso. Qui ti trovi di fronte a un bivio tra due programmi di studio. Il primo ti porta verso la Cina, il secondo in Francia. Quale scegli e perché? Ovviamente la Cina perché una delle mie professoresse più stimate della Bocconi, Maria Weber, mi aveva fatto innamorare appunto della Cina, e avevo sentito parlare così tanto che non potevo continuare a leggere libri, ma dovevo andare a esplorare, dovevo vedere direttamente tutte queste novità. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Nel 2009, fresco di laurea triennale e dell'esperienza americana, ero di nuovo parte di un'avventura che è stata indimenticabile. Qual è stato, Livio, il vero valore aggiunto dell'esperienza umana in Estremo Oriente? Il valore è stato incredibile perché la prima volta che ci siamo confrontati, sia io che i miei compagni di classe, con la diversità, 50 studenti italiani e 50 studenti cinesi, le differenze sono eclatanti ovviamente, quindi il valore, oltre gli studi, oltre il programma rigoroso, è stato veramente con la capacità di lavorare in gruppi, facendo progetti di gruppo, teamwork, con persone che hanno dei background totalmente differenti. Al termine del primo anno in Cina, ritorno in Occidente, con uno shock culturale, ti aspetta una internship a Washington, poi ritorno in Cina con un continuo salto est-ovest-est, in Cina divieni assistente della tua professoressa, ti imbarchi anche in una prima avventura imprenditoriale e poi alla fine arriva anche la svolta, alla fine del corso in Cina. Svolta targata Nazioni Unite, con quale posizione e dove? Cambogia, Phnom Penh, che sinceramente non sapevo neanche dove fosse prima di avere l'offerta, e ero un junior economist. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Livio Valenti, 29enne imprenditore negli Stati Uniti, dove ha cofondato la sua startup Vaxas Technologies, attiva nel settore della produzione farmaceutica. Livio, inserito dalla rivista Forbes all'interno della classifica dei 30 under 30 più influenti a livello globale, ha alle spalle una straordinaria carriera a cavallo tra due mondi, l'Asia e gli Stati Uniti, senza perdere di vista l'Italia, suo paese di origine, al quale continua a guardare. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Alla fine dell'aprile 2009, 5 anni fa, inizia la tua avventura per la UNDP. Lavorativamente il periodo in Cambogia e poi nel resto del sud-est asiatico è stato fantastico, ricordi. Su cosa hai lavorato e quanto quel periodo è stato poi fondamentale nel porre le basi della tua carriera futura? E qui accenno solo una parola, seta. Parlando di Connected Dot, penso che sia stata proprio la svolta, perché il mio lavoro era basato su aiutare contadini in paesi, diciamo, in paesi di sviluppo nelle aree rurali della Cambogia a costruire infrastrutture e a far partire progetti di sviluppo rurale, e uno di questi progetti era proprio basato sulla seta, quindi tutti, diciamo, i punti poi tornano a connettersi in una fase successiva. E tra poco vediamo bene come, dopo 3 anni lasci l'ONU e arriva il bello, perché in un eterno ping pong tra Oriente e Occidente riapprodi ancora al di là dell'Atlantico, questa volta nella prestigiosa università di Harvard. Ottieni l'ammissione ad Harvard, poi un'altra importante ammissione per una borsa di studio. Qui ti viene in aiuto addirittura l'Italia. Come? Una volta che sono stato accettato ad Harvard, c'è una borsa di studio, una all'anno, che viene data a uno studente italiano che è stato ammesso al corso di laurea ad Harvard, e sono stato fortunato a riceverla. È una delle borse di studio più generose che mi ha consentito di partecipare a questo programma, e che altrimenti ovviamente sarebbe stato veramente difficile partecipare. In cosa ti sei laureato ad Harvard? Master in Public Policy con un focus su competitività e imprenditorialità. Dopo la laurea alla Harvard Kennedy School of Government mi sono lasciato incantare dall'area imprenditoriale che circola liberamente tra Harvard e l'MIT, ricordi. Come nasce allora Vaxas, la tua azienda, e soprattutto qual è l'idea alla base di questa impresa fondata tra i banchi di scuola? È basata sul concetto di commercializzazione della scienza, che è un concetto che in America è fortissimo, in cui innovazioni tecnologiche che sono sviluppate da professori nelle università possono diventare, diciamo, la base di aziende che poi vanno a risolvere dei problemi importanti, come nel nostro caso la stabilità dei vaccini. Quindi questa è stata l'idea. Si dice abbiate attirato l'attenzione di Bill Gates, è vero? Difficile attrarre l'attenzione di Bill Gates, diciamo che siamo nel suo radar più esteso. In bocca al lupo. I riconoscimenti arrivano presto, oltre al tuo inserimento nella classifica di Forbes parlano di voi anche i Financial Times, The Economist. Oggi ho il privilegio di gestire un'azienda che ha l'obiettivo di utilizzare la tecnologia basata sulla seta per creare vaccini che raggiungono ogni angolo del mondo, ci scrivi. Ti chiedo quanto l'ecosistema americano favorisce la nascita e la crescita di startup. Credo che l'ecosistema americano e soprattutto quello di Boston, per quando si parla di biotecnologie e di innovazione basata sulla scienza, sia veramente il posto più fertile dove mettere le radici. Ci sono venture capital, ci sono investitori, ci sono ottime idee generate nelle varie università, e la cosa che diciamo più importante è ti dà confidenza, perché vedi esempi di successo in ogni angolo e quindi magari credi che può essere di successo anche tu. Credo che in Italia ci siano tutti gli ingredienti per imbarcarsi in un progetto ambizioso. Chi vuole partecipare? Così concludi la tua lettera a Giovani Talenti. Allora, Livio, quanto vedi possibile una tua riconnessione col paese di origine? La vedo possibilissima e la vedo doverosa, perché alla fine devo ripagare il mio debito con il governo italiano che mi ha aiutato a studiare ad Harvard. Quindi in qualche modo, sia pratico che sia filosofico, devo riuscire a riconnettermi a un certo punto, quando sarò pronto per farlo, e dare una mano. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? La vedo in fermento, cosa che non va, penso che sia forse più facile identificarlo da chi ci vive tutti i giorni, però una proposta concreta è semplicissima: invece di dare una borsa di studio all'anno, dare 10 borse di studio a studenti che meritevoli che vogliono andare ad Harvard, e poi si vedrà il moltiplicatore, l'effetto moltiplicatore di questa esperienza. Se sono riuscito a farlo io, lo possono fare anche gli altri 9 che riceveranno questa borsa di studio, quindi penso che sia una cosa semplicissima da fare e che dovrebbe essere implementata oggi. Ci raggiunge ora in linea il professor Dante Roscini, professore di management alla Harvard Business School di Boston. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Professor Roscini, cominciamo subito da un commento alla storia di Livio, una storia davvero straordinaria, una storia in cui l'Italia ha giocato un ruolo importante, prima con l'offerta educativa internazionale e poi con una borsa di studio. Ma in Italia, le chiedo, questa storia sarebbe stata possibile? Credo, come sottolinea giustamente lei, l'Italia sarà importante nella formazione di Livio. La domanda è, come per altri talenti, è cosa avviene dopo la formazione. È chiaro che in America, come ha detto lui stesso, ha trovato un ecosistema fra università, mercato, agevolazioni, forse direi soprattutto mentalità, che avrebbe reso la sua storia più difficile da realizzare in Italia. La presento brevemente: oltre ad essere docente alla Harvard Business School, dove insegna al Master in Business Administration, lei ha un forte curriculum aziendale, sia nelle principali banche d'affari americane, sia come ingegnere nucleare, il suo campo tra l'altro di studi primario. E di giovani studenti italiani lei ne ha visti passare davanti davvero tanti in questi anni. Quali sono i punti forti e quelli deboli nella loro preparazione? Ad Harvard siamo molto fortunati, abbiamo davanti a noi degli studenti estremamente capaci e che provengono letteralmente dal mondo intero. Gli italiani in realtà sono meno numerosi di quanto si possa pensare, però quello che li caratterizza è che sono, direi, culturalmente flessibili, hanno un spirito critico, sono creativi, sono capaci di lavorare in squadra e mostrano iniziativa e capacità a sviluppare delle idee indipendenti. Direi queste sono un po' le loro caratteristiche. Un punto importante che emerge dalla storia di Livio è la stretta connessione tra università e mondo produttivo negli Stati Uniti. Quanto questo mantiene dinamica l'economia nazionale, favorendo la nascita e la crescita di start-up giovani? E quanto è ancora lontana l'Italia dalla creazione di un simile ecosistema? Sicuramente negli Stati Uniti il legame tra sistema educativo e aziende è molto forte, sia in termini di ricerca che in termini di formazione. Le stesse università incoraggiano la nascita delle start-up. Faccio un esempio: ad Harvard abbiamo creato quello che chiamiamo l'iLab, l'Innovation Lab, e poi direi che c'è la capacità delle giovani imprese a finanziarsi, perché c'è un mondo di investitori che è pronto a iniettare capitale e anche dare consulenza alle aziende ai primi passi. Questo da noi manca. Lei stesso nota come molti dei giovani italiani che frequentano Harvard non prendano poi in considerazione l'idea di tornare nel paese, a differenza, devo dire, di Livio. Perché? Cosa impedisce una riconnessione? L'ostacolo principale è il grande differenziale di opportunità. Nel sistema americano, se uno segue una certa strada, ha un inserimento, direi, quasi naturale nel mondo del lavoro. Invece i pochi ragazzi che tornano in Italia, direi, si sentono un po' come dei Don Quixote, combattono un po' contro i mulini a vento. Quindi, al di là, diciamo, delle ovvie considerazioni sul fatto che abbiamo dei mercati di dimensioni molto diverse, eccetera, tornare per cercare successo in Italia per un giovane che si laurea in America significa affrontare una battaglia per emergere che è più dura, più solitaria. Quale ricetta propone lei per invertire questa vera e propria emergenza nazionale? Ma guarda, mi piacerebbe che esistesse una ricetta semplice da applicare. In realtà dovremmo peraltro mirare ad attrarre talenti in generale, non solo far rientrare quelli di casa nostra. Io penso che al di là delle ovvie incentivazioni fiscali piuttosto che di carriera, bisognerebbe risolvere delle questioni di fondo. A mio parere ci vuole un po' un cambiamento culturale, forse per certi versi anche morale, con dei comportamenti, dei valori che vanno insegnati fin dall'educazione primaria. Non è una cosa semplice. Grazie al professor Dante Roscini. E domanda di rito per Livio Valenti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Ti consiglierei vivissimamente di partire per un paese lontano, apprezzare la diversità e trarne conoscenza e poi tornare arricchito e pronto a risolvere forse alcuni dei problemi che sono molto importanti che gli stanno a cuore, e molto spesso quando uno cerca di risolvere i problemi che ti stanno a cuore hai trovato la tua vena imprenditoriale, hai trovato l'opportunità forse migliore per lanciare un nuovo progetto. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un esperto in sistemi dell'informazione per KPMG Advisory a Bruxelles, scadenza per i CV domani, info su intelcareers.kpmg.it. Un ingegnere civile addetto alla sicurezza per Ameca Birchwood in Gran Bretagna, scadenza per i CV 18 settembre, info su amec.com. E infine un professore di chimica verde all'Università Tecnologica di Tallinn in Estonia, scadenza per i CV 1 luglio, info su ttu.ee. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Avete mai pensato di fuggire in Austria, paese con uno dei tassi più bassi di disoccupazione giovanile in Europa, per trovare lavoro? Un sito online vi spiega come fare. Enzo Caldarola, ideatore di scappiamo.net. Iniziò nella fine del 2012, quando erano già circa 3 anni che vivevo in Austria, e siccome ero molto attivo nei forum, molta gente mi chiedeva che cosa fare per venire in Austria, come trovare lavoro e molte informazioni. Allora così ho iniziato un po' per gioco e ho iniziato a creare questo sito. Quale tipo di informazioni dai su scappiamo.net? Diamo consigli a gente che vuole cercare lavoro, diamo informazioni pratiche sulla vita effettiva in Austria, come si vive, ci sono un paio di articoli sul costo della vita, come trovare la casa, e quindi articoli che ti fanno assaporare un attimo il dettaglio tecnico, diciamo, perché molte informazioni sono difficili da trovare sulla disoccupazione, eccetera. Perché un giovane italiano dovrebbe scegliere l'Austria? C'è la disoccupazione più bassa in Europa, e questo è uno dei punti forti dell'Austria. Uno magari dei punti deboli è il tedesco, perché è molto difficile da imparare, soprattutto per noi italiani che fatichiamo con le lingue in particolar modo. Quali sono i settori dove è più facile trovare lavoro per un giovane in Austria? Per un giovane in Austria c'è sempre possibilità nella ristorazione e nel turismo. Un altro settore da considerare è la logistica. Cosa ti chiedono in particolare i giovani che ti scrivono al sito? Molti purtroppo mi mandano i curriculum direttamente sperando che io possa trovare lavoro, ma sicuramente secondo me per chi viene in Austria ci deve essere non solo la voglia di scappare dall'Italia, ma la voglia di venire in Austria anche, perché comunque le difficoltà del trasferimento in un paese straniero ci sono per tutti. Negli ultimi mesi o anni hai visto un incremento di giovani che cercano informazioni su come lasciare l'Italia, e che tipo di profili hanno? Sicuramente crescere in maniera esponenziale la richiesta di venire in Austria negli ultimi mesi. La gente che mi contatta per la maggior parte ha dei profili con lavori manuali. Ogni tanto ci sono anche dei dottori, infermieri anche, che mi contattano, però ce ne sono sicuramente profili alti, ce ne sono un po' meno, che forse quelli che cercano forse di più in Austria. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.scappiamo.net. Un motivo per restare o tornare. Via libera la chiamata diretta di 15 cervelli eccellenti in 4 enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero per l'Istruzione grazie allo stanziamento di 1,6 milioni del Fondo Ordinario di Funzionamento degli Enti. I 15 sono ricercatori e tecnologi italiani e stranieri di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. E intanto, con la riforma della pubblica amministrazione, il governo promette 15.000 posti per i giovani grazie a ricambio generazionale. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è abolire gli ordini. Dibattetene in 140 caratteri.